1896, da quando esistono le Olimpiadi moderne, sono state annullate le Olimpiadi programmate durante i conflitti bellici, ma mai spostate o posticipate. Questo fa capire l'eccezionalità del momento. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Slittamento a 2 anni mi avrebbe portato al ritiro, questo sicuramente. Quindi la decisione che è stata presa dal CIO secondo me è quella più corretta. Passami la battuta, è una notizia che mi taglia le gambe. L'anno prossimo sarà ancora più complicato, però non crede che non stia già pensando a come farlo. Sicuramente adesso ci confronteremo io e Tania, ma non si possono prendere decisioni con una notizia che è così calda. Il sogno olimpico, per forza che rimane, è una cosa che vogliamo a tutti i costi, e quindi adesso sarà calendarizzato un po' il tutto. Io a luglio avrei compiuto 38 anni, quindi significa che l'anno prossimo ne dovrò avere 39. Per me è un po' controproducente, però sono d'accordissimo con questa decisione, perché in primis va la salute dell'atleta, delle persone, dei tifosi e poi tutto il resto. Mi dispiace non poterle fare, lasciare così. Mi piacerebbe fare quest'ultima Olimpiade, però ecco, un anno è lunga, eh? Hai voglia qua a mangiare? Io già oggi mi sono, dalla disperazione, mi sono strabogata. Quest'ultima era Lisa Di Francesca, abbiamo sentito Federica Pellegrini, Alex Zanardieri, nostro ospite, Francesca Dall'Appè, Aldo Montano. Super puntata con un super giro tra atleti olimpionici stoppati nei loro allenamenti e anche in alcuni casi forse nei loro sogni. Claudio Schiattone, Alessandro Schirano, Anita Panizza, Roberta Frisani in regia per questa puntata, per l'appunto, cui potete intervenire ovviamente come sempre 800 24 00 24, WhatsApp vocali 349 238 6666. Avremo grandi ospiti, abbiamo Pierluigi Pardo, ciao Pier, ciao. E Dario Ricci, che stamattina ha partecipato alla conference call con il presidente del CIO Bach. Ciao Dario. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Che si è detto? Beh, Bach ha un po' ricostruito queste ultime 2 giornate di fuoco, no? Perché ci eravamo lasciati che il CIO si sarebbe preso un mese di tempo per decidere. Ci siamo ritrovati ieri, come prevedibile del resto, con le Olimpiadi di Tokyo rinviate. Beh, da quella prima decisione a quest'ultima ne sono successe di cose. Sono arrivati gli allarmanti report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto Bach. La penetrazione molto importante del coronavirus in Africa, spesso lo dimentichiamo, il continente africano, e non solo nello sport, ma Africa vuol dire Kenya, Marocco, Etiopia, gran parte dell'atletica leggera che è la regina delle Olimpiadi. Lo sfilarsi poi di alcuni comitati olimpici, lo ricordiamo, Canada e Australia, anche questi non di poco conto, e poi le incertezze crescenti da parte degli atleti, che pure sono stati consultati, ha detto Bach, attraverso i loro rappresentanti nei comitati olimpici nazionali. E poi direttamente più di 200 atleti sono stati, hanno avuto la possibilità di dialogare con i vertici del CIO. Da qui poi il confronto con le autorità giapponesi, e Bach poi ha ricostruito anche quella che è stata la scelta finale, ha detto è stato il premier Abe a proporre questo rinvio, ma credo ci abbia messo mezzo secondo il CIO e il suo presidente ad accogliere questa proposta. Qual è lo scenario che si sta definendo adesso? Si è stata creata una task force perché tutto va ridefinito, dal futuro del villaggio olimpico, sappiamo che quelle abitazioni erano già state vendute a fine Olimpiadi, alle conseguenze economiche. Sembra che la rete degli sponsor sia tenendo, e tutti gli scenari sono aperti, vale la pena ribadirlo, Carlo, perché molti hanno inteso, insomma, questo rinvio come diciamo una semplice trasposizione alla prossima estate, no? Ad un ipotetico 24 luglio 2001 in cui il braciere olimpico finalmente arderà a Tokyo. Ebbene, non è strettamente così, perché l'estate rimane il periodo più probabile, ma tutti gli scenari sono aperti, ha detto Bach. Non è da escludere che appena il coronavirus lo permetterà e la situazione mondiale, e staremo a vedere anche quello che capiterà da oggi in poi in Giappone, non è da escludere l'ipotesi dei giochi anche in primavera. Il presidente ha detto: quello che vogliamo è assolutamente che ci siano giochi in assoluta sicurezza per tutti. Chiaro, quindi, insomma, chiaro. Tutti gli scenari sono aperti in una situazione senza precedenti. Chiaro, grazie Dario, grazie davvero, molto grazie preciso a voi, il quadro a ora della situazione. L'ha detto anche Malagò: estate può voler dire aprile, può voler dire marzo, si tratta di capire quando collocare i giochi, anche perché c'è poi la ricaduta su altre manifestazioni importanti, ad esempio mondiali di atletica e di nuoto programmati per l'anno prossimo. Già le federazioni internazionali hanno già aderito ovviamente allo spostamento di tali manifestazioni, però si tratta di ridefinire tutto. Per lui abbiamo un nostro vecchio amico, Gigi da Tome. Ciao Gigione. Ah, grazie. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Rinasco Gigione, come va? Così, come tutti, dai, a casa aspettando novità. Aspettando novità, la novità è arrivata ieri, l'abbiamo comunicata a Zanardi, che era collegato con noi proprio nel momento in cui è arrivata la comunicazione. Ci è rimasto un po' così, Gigi, il rinvio delle Olimpiadi. Però, voglio dire, il senso delle Olimpiadi, mi è capitato di dire, è la contaminazione, no? Cioè il fatto di chiudere uno spazio molto stretto, tifosi, turisti, appassionati che arrivano da, e atleti ovviamente, uno spazio ancora più stretto che il villaggio, che arrivano da ogni angolo del mondo. Dunque l'esatto opposto della situazione attuale. Ah sì, adesso ovviamente non avendo neanche mai partecipato alle Olimpiadi, però immagino che se hanno fatto una scelta così clamorosa per certi versi e con così tanto anticipo, era qualcosa di impensabile, insomma, e quindi forse per gli atleti, anche perché io mi metto nei panni degli atleti, forse è meglio saperlo prima possibile per poter riprogrammare gli allenamenti eccetera in vista delle Olimpiadi che sarà il prossimo anno, anche se ho capito bene non si sa se è proprio sarà d'estate, più come se niente, come stesse date il 2021, giusto? Non è uno spostamento di 365 giorni, si tratta di definire quando. Se detto estate 2021, però anche Malagò ha detto può essere marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ancora il mese non si conosce. Però sicuramente per gli atleti, almeno già saperlo adesso, insomma, penso che sia meglio che saperlo fra 3 mesi, immagino. Sì. Pier, la procedura di decisione del CIO è stata un po' simile a quella dell'UEFA, no? Hanno deciso grosso modo altri, ha deciso la situazione e l'organismo ha ratificato. Sì, ma alla fine, insomma, devo dire che c'è poco da commentare, cioè, siamo di fronte veramente a un caso di forza maggiore imprevisto, imprevedibile, bisogna semplicemente prendere atto di questa situazione. Io credo che non ci fossero alternative, c'era in questo momento già una sorta di mancanza di par condicio fra luoghi del mondo dove ci si può allenare bene e luoghi dove non ci si può allenare, c'erano già adesso rischi per la sicurezza stessa degli atleti, l'orizzonte da qui a qualche mese comunque un orizzonte ancora molto confuso, purtroppo non abbiamo certezza che a metà luglio, ce l'auguriamo ovviamente, insomma siamo ottimisti per natura, però non abbiamo certezze che a metà luglio la vita sarà al 100% regolare, e le Olimpiadi hanno bisogno, insomma, di una contaminazione nell'accezione più bella e più positiva, non quella, chiaro, del contatto, di un mescolarsi di persone a tutti i livelli che è importantissimo. Quindi, meraviglioso contagio culturale e sportivo. Esatto, culturale e sportivo, e insomma io sono d'accordo, sai come la penso dall'inizio, penso che insomma non si può andare avanti a dispetto della logica, e lo sport, che è una cosa meravigliosa, che in questo momento mi manca tantissimo e credo ci manchi a tutti tantissimo, però lo si può fare nel momento in cui te lo puoi godere, in cui può diventare veramente un evento bello e capace di sviluppare tutta la sua forza, altrimenti non ha senso. Io immagino quanto possa mancare anche a Gigi perfino gli strilli di Obradovic. Ma sì, da una parte adesso la situazione è talmente di emergenza che lo sport che per noi tutti qui presenti è parte fondamentale della nostra vita passa veramente in secondo piano. C'è da preoccuparsi solo per chi sta veramente affrontando questa emergenza in un clima surreale con tutti i problemi, ahimè, del caso. E poi sì, fortunatamente c'è qualcun altro che deve prendere queste decisioni, ovvero le persone che sono addette, non solo gli esperti. Sicuramente manca la pallacanestro, però ad oggi è qualcosa che va veramente di secondo piano. Senti, la situazione in Turchia qual è? Per quanto ne sai di... Ma la situazione dalla mia finestra di casa sembra che le macchine si muovano con meno frequenza rispetto a prima, però non ci sono delle restrizioni come da noi in Italia, per esempio. Gli sport sono fermi, per chi non lo sapesse, hanno fermato calcio, basket, volley settimana scorsa, però l'unica restrizione, se non sbaglio, è che gli over 65 non devono uscire di casa. Sì. Per il resto la gente va a lavorare, i locali sono chiusi, ma più per scelta individuale che per un decreto come da noi. I casi sono di meno che da noi, però per forza di cose crescono di giorno in giorno, però quello che sembra è per adesso sia sotto controllo e mi auguro ovviamente che rimanga così. Sì, quindi situazione un po' diversa rispetto alla nostra, anche in altri paesi come ad esempio la Serbia gli over 65 non escono di casa, però lo spaccato della Turchia, questo è molto interessante, Piero, vuoi sapere qualcos'altro? Ma no, vabbè, sul fronte turco. No, fa parte di questo tipo di approccio che alcuni paesi stanno provando, che è un pochino più selettivo, no? Basato su delle fasce di età precise, su determinate categorie di possibile sintomatologia di un certo tipo, e questa cosa chiaramente funziona se verrà confermato quello che in un primo momento sembrava certo, cioè che fosse un virus che potesse colpire in maniera mortale o comunque molto pesante soltanto persone molto anziane o con delle patologie forti. In realtà in questo momento mi pare che le testimonianze sono un po' miste da questo punto di vista, quindi non lo so, poi invece io c'è un altro aspetto che sono, insomma, che mi interessa molto. È chiaro che tutti diciamo la nostra vita sarà diversa, ma anche la vita degli sportivi forse. Le dinamiche sul campo come te le immagini? Cioè come pensi si comporteranno gli atleti professionisti? Sarà qualcosa di diverso? Avrete un retropensiero nel momento in cui si tornerà a giocare? Sono molto curioso, ma io penso che il mondo, adesso non voglio essere, non so, pessimista, ma neanche essere pessimista. Ecco, una parte di me realista, io penso che il mondo non sarà più lo stesso per un periodo. Non penso che appena ci diranno che potremo uscire di casa in Italia allora tutto tornerà come era a dicembre, per dire, non credo. Quindi immagino che anche lo sport ci siano cose diverse, ci sarà più prevenzione, non so come. Adesso ripeto, non è veramente uno dei miei pensieri adesso, non so neanche quando torneremo a giocare, se torneremo a giocare quest'anno, perché c'è anche la possibilità che la stagione venga sospesa. Però non lo so sinceramente, per quello penso che per esempio l'Olimpiade hanno fatto bene a rinviarla, perché non è qualcosa che si può rinviare di due mesi, è qualcosa che ci vuole veramente tempo, ma nella vita quotidiana immagino, quindi la maggior ragione nello sport che richiama assembramento di tante persone, che ci spostiamo tanto, voliamo ogni settimana praticamente, quindi non ho idea, insomma, sono curioso perché comunque per forza di cose la salute va salvaguardata, questa epidemia va quantomeno controllata pian piano, e quindi bisogna fare in modo di essere al 100%, come ha detto Pierluigi, lo sport deve tornare ad essere un evento di festa, di gioia e condivisione, e quindi ci vorrà del tempo, immagino. Sì, tu te l'immagini un finale di questa stagione, oppure chiaro che nessuna delle certezze, ma si parla solo di sensazioni. Ti immagini una fine di questa stagione in corso, oppure pensi che non sia possibile, non sarà possibile? Non lo so, veramente non lo so, e ripeto, non è per fare il bravo ragazzo, quello che pensa più là del proprio giardino, ma è veramente adesso è veramente il secondo piano. Io sono pronto a tutto, sono pronto se mi dicono che il campionato continua ed è... ci sono le condizioni per farlo continuare, non so, a luglio, dico una scemenza, ci alleneremo, ci prepareremo per giocare a luglio. Se mi dicono che la stagione è falsa, si inizia tutto il primo anno, sono pronto a anche a questo, ahimè, certo, ma si va avanti, certo, perché c'è qualcosa di più grande di tutti noi in ballo, quindi anche le stagioni sportive, insomma, hanno rinviato le Olimpiadi, mi immagino che possano anche sospendere una stagione di pallacanestro. Grazie Gigi, grazie davvero. Grazie a voi, state a casa se potete. Certo, questo certamente, ringraziamo Gigi Datome. No, poi è chiaro, Pier, che dovesse continuare questa stagione non sarà in condizioni normali, io credo. Ti ricordo, sempre nel campo del basket, l'altro giorno abbiamo sentito Ettore Messina che ha detto: aspettiamo che tutte le componenti siano al loro posto. Se aspettiamo che tutte le componenti siano al loro posto, ho l'impressione che si vada molto lunghi. Sì, però è anche vero, guarda, è anche vero che noi viviamo un tempo che rispetto a, no, spesso si fa il paragone con le guerre, noi viviamo un tempo che comunque è un tempo molto veloce. Tutto è iniziato per noi italiani un mese fa. È chiaro che oggi le incertezze sono enormi davanti a noi, gli scenari sono ancora molto confusi, però questo elemento del tempo non va sottovalutato, nel senso che comunque a noi ci sembra un tempo biblico, già io sono venuto a casa ininterrottamente da 15 giorni. E mi sembra, no, però poi è il nostro mestiere anche fare delle previsioni, non riusciamo a prevedere cosa succederà domani, vedi un po' tu, quindi direi si ricomincia maggio, luglio, giugno. Ogni giorno in questa epoca di comunicazione H24 tutto sembra che così, che sia un tempo infinito. In realtà poi nella storia del mondo parliamo di un tipo di patologia che ci auguriamo possa essere comunque risolta nel giro di qualche mese, no? Quindi voglio dire, se non di qualche settimana, e semmai il vero tema è capire il dopo, capire la coda del virus a questo punto, no? Cioè capire che tipo di normalità della vita ci sarà dopo, e questo dipende molto dagli scienziati. Questo lo scopriremo vivendo. Dal vaccino al comportamento del virus e anche dalla farmacologia, certo, si riusciranno a trovare, perché è chiaro che se si trovano delle soluzioni per poter evitare le situazioni più acute, già cambia tutto, no? Nel modo di affrontarlo. No, detto è questo, sicuro. Le conseguenze ci saranno, le conseguenze, io credo, soprattutto all'inizio, di natura anche psicologica nel rapporto. Ma è quello è molto interessante. Ma facciamo così: continuiamo il giro tra i grandi protagonisti dell'Olimpiade 2021. Ad esempio, Kiko Blengini, che guiderà la nazionale italiana all'Olimpiade del 2021 sotto la bandiera CIO 2020, 5 cerchi 2020. Ciao, coach. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, la tua reazione, abbiamo sentito Federica Pellegrinese di Francesca, insomma, giro degli sportivi, la tua reazione a quanto deciso? Ma la reazione istintiva, immediata, la prima, è proprio quella di capire che in realtà la cosa più importante è la salute delle persone, la loro sicurezza, non solo all'interno delle Olimpiadi, ecco. Quindi io per molto tempo, nel ragionare sulle possibili eventualità di spostamento, ho sempre detto che se noi andavamo a pensare a cancellare, che se fosse stata cancellata l'Olimpiade, ci sarebbe stato da preoccuparsi di qualcosa di più importante dell'Olimpiade, perché voleva dire che davvero la questione era molto più grave e molto più pericolosa rispetto a quella che stava aspettando. Qua stiamo parlando di uno spostamento, però la prima cosa è la prova provata, che quello che BAC, che il Comitato Olimpico, ci stava dicendo nei giorni passati, che il presidente Malagò ha riferito più volte, che nelle decisioni, nelle strategie, nei ragionamenti, la salute sarebbe stato il cardine, il motore per prendere una decisione, cercare delle soluzioni prima di interessi economici, prima di interessi politici, di aspetti organizzativi. Credo che lo spostamento sia la prova provata che così è stato. Sì. Che impressione ti ha lasciato l'iter invece politico attraverso il quale si è arrivata alla decisione? Sostanzialmente il CIO si era preso altre 4 settimane di tempo, il governo giapponese ha detto: no, guardate, il padrone di casa non concede i locali, e quindi il CIO non ha fatto altro che ratificare quella decisione che è stata presa altrove. Procedura corretta? Questo non spetta a me determinarlo. Io credo che la cosa più importante in questo momento sia la collaborazione delle componenti, la collaborazione delle parti che stabiliscono aspetti organizzativi, aspetti sportivi, aspetti sanitari, e quindi credo che poi che l'iter sia l'uno o l'altro quello più corretto, non lo so. Io credo che davanti a tutto ci sia prendere di comune accordo, e mi sembra che questo sia assolutamente l'idea, una decisione a salvaguardia della priorità, sicuro, che è la sicurezza degli atleti, ma non solo degli atleti. No, ma la sicurezza di tutti quanti, perché dicevamo prima il senso dell'Olimpiade è la contaminazione nel senso più bello del termine, no? Quindi assolutamente, perché se noi andiamo a pensare in maniera superficiale magari solo al discorso atleti, trascuriamo per esempio il discorso pubblico, ma trascuriamo anche quello che è il circo, no? Dal punto di vista della grandezza dell'Olimpiade, ci sono 150.000 accreditati tra televisioni, addetti ai lavori, dirigenti, giornalisti, insomma stiamo parlando di un qualcosa di davvero molto, molto importante dal punto di vista del contatto tra le persone, non solo gli 11.000-12.000 atleti che devono partecipare con i rispettivi staff. Ma d'altra parte Pierluigi, che ne ha vissuti diversi, immagina un mondiale chiuso e concesso solo agli atleti e alle televisioni, cioè qualcosa di sinceramente non immaginabile, ma neanche auspicabile. Ma poi è proprio la caratteristica di questo virus che rende impossibile anche proprio la tranquillità. In questo momento non si può giocare, dai, in questo momento non si può giocare, perché anche se tu fai continuamente dei tamponi a tutti gli atleti, li dovresti fare ogni giorno, gli atleti poi chiaramente un minimo di vita normale devono farla, e quindi potrebbero infettarsi in qualsiasi momento. Per quella che è la situazione del virus in questo momento non ci sono le condizioni, magari fra 4 mesi le Olimpiadi, ce lo auguriamo insomma che a metà luglio, a fine luglio ci sia una situazione ben diversa da quella di oggi, però è anche vero che per quanto riguarda le Olimpiadi c'era tutto un discorso di qualificazione, di gare, di preparazione degli atleti, di par condicio nel poterla preparare. E, insomma, lo sport ha bisogno di essere un momento di apertura, di festa, non è retorica, è l'essenza stessa dello sport. È chiaro. Quindi, e delle grandi manifestazioni internazionali a maggior ragione, perché si tratta di chiudere. Dello sport ci sarà clamorosamente bisogno ancora di più appena finirà questa situazione, perché lo sport è una di quelle forme che riescono a catalizzare le energie, la passione, l'entusiasmo, quindi è veramente un segno di rinascita, e quindi sarà ancora più importante lo sport. Quell'effimero necessario, che oggi sembra così effimero, diventerà così necessario. Volevo chiedere, per chiudere, a Chico Blengini, anche, insomma, l'ho fatto prima da Tome la domanda, anche lui è curioso di capirlo, di capire quali saranno le dinamiche tra i protagonisti dentro al campo. Ti sei posto ovviamente il problema, coach, dinamiche interpersonali sul campo, come reagiranno gli atleti al primo allenamento, alla prima partita, nello spogliatoio? Dipende, ma io credo che prima di ragionare dal punto di vista dell'Olimpiade ci sia da ragionare sulla ripresa dei vari campionati nazionali, sì, certo. NBA, come il campionato di calcio, piuttosto che il campionato di pallavolo, per parlare del mio specifico. Dipende da quanto tempo passerà perché venga data la possibilità di ritornare in campo. È chiaro che un po' di disagio ci sarà, la situazione è cambiata. Io credo che questa situazione, che spesso diciamo ci cambierà, sicuramente ci stimola a una sfida rispetto al cambiamento che spesso dobbiamo forzarci a fare, non riusciamo a fare in situazioni di libertà di decisione. Qua non decidiamo, stiamo a casa, sfidiamo il virus rispettando le regole. E quindi sicuramente quando torneremo saremo un po' diversi, ma sicuramente non potremo fare a meno di pensare. Credo che quanto saremo a disagio, quanto saremo preoccupati di entrare in contatto al primo allenamento con un compagno piuttosto che con un dirigente o un addetto ai lavori, dipenderà da quanto ci sentiamo sicuri, da quanto percepiamo e vediamo che la situazione è una situazione magari non completamente normale, ma di grande sicurezza, ecco. Sì. Grazie coach, a presto, buon grazie lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti, buon lavoro. Ciao coach, grazie Lorenzo Blengini. Pier, noi ci sentiamo domani, ti do appuntamento a domani, quando avremo Alex Del Piero. Sei contento? Ah, sono contento, sì. Prepariamoci. credo che lui sia in California, no? A Los Angeles. A Los Angeles, quindi... ma si sveglierà molto presto per noi, per i nostri ascoltatori, no, per noi, non per me, te, per i nostri ascoltatori. È vero amore. Ciao Pier, ti abbraccio. Ciao. Ci fermiamo per la borsa e poi affrontiamo un altro tema sempre connesso alle Olimpiadi, che è sempre connesso a un grande evento che in questo momento rimane in piedi e che è il Tour de France. Faremo un viaggio nel mondo del ciclismo con i CT Cassani e con Elia Viviani, che a Tokyo 2021 a questo punto difenderà l'oro vinto a Rio de Janeiro 4 anni fa. Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Pedala verso la medaglia d'oro, Elia Viviani scuote la testa, è il momento, sì, è il tuo momento, grande Elia, grandissimo Elia Viviani, medaglia d'oro nel ciclismo su pista, nell'Omnium per l'Italia con Elia Viviani. CT Davide Cassani, questo momento è solo rinviato, no? Di un anno. Spero di sì, intanto mi ha fatto piacere sentire questa telecronaca di Francesco Pancani, sì. Di Rio, sì. E sì, dobbiamo aspettare un anno, ma penso che sia stata la decisione più saggia e intelligente. Guarda che lo stai dicendo direttamente a lui, al tuo atleta. Ciao Elia, buongiorno. Ciao a tutti, ciao Davide. Ciao Elia, come stai? Tutto bene. Smaltita, sì. Delusione immagino di sì, no? Immagino che scenda anche un po' quella adrenalina agonistica, Elia, visto che ti stavi tra mille difficoltà preparando, però era inevitabile questa decisione del CIO. Ma guarda, sinceramente le emozioni provate ieri sono più di sollievo che di rabbia o di... nel senso che nel momento in cui è stata fermata la stagione ci può essere quella sensazione di rabbia e di incredulità, perché questa sono state le emozioni provate. Però ieri devo dire che la notizia, anche secondo me giusta, mi ha tolto un peso, perché stiamo vivendo l'incertezza, stiamo vivendo giorno per giorno, stiamo affrontando un problema che va al di là dello sport, e quindi davanti a tutti questi punti di domanda io ieri mi sono tolto un peso a sapere che le Olimpiadi saranno il prossimo anno, che ci sarà il tempo di riprogrammare, di avvicinarci a quelle Olimpiadi proprio come vogliamo, ecco. Piero Augusto Stagi, grande discorso di Elia Viviani, bellissima considerazione. Eh sì, condivido appieno. D'altra parte era come liberarsi un attimo da un macigno, anche perché in questo momento la testa di tutti noi, compresa quella dei corridori e degli atleti tutti, che non vivono in un'altra realtà, in un altro mondo, ma vivono con noi, insieme a noi, e stanno vivendo in questo momento un dramma, esattamente come il più grande dei pantofolai, la mente deve essere proiettata a pensare a qualcosa di più importante. Questo momento più importante è quello di riuscire a vincere questa sfida tutti assieme. E tutti assieme dobbiamo tornare ad uscire di casa prima che cominciare a pensare ai nostri lavori, ai nostri obiettivi, alle nostre medaglie, ai nostri traguardi. E quindi Elia ha parlato bene. Adesso la testa è un attimino più sgombra, facciamo punto a capo, riordiniamo le idee, vediamo di concludere questa sfida tutti assieme, che ci vede veramente tutti con la stessa maglia, tutti con la stessa bandiera, sicuro, tutti con lo stesso obiettivo. Ma volevo chiedere ci metteremo, no, ognuno si rimetterà al suo posto, noi davanti a una televisione, noi davanti, sopra i gradini, e loro in pedana, in strada, sui campi di calcio. Sì, no, volevo chiedere a CT se condivideva questa sensazione di sollievo, perché ieri ho parlato con... abbiamo dato noi la notizia ad Alex Zanardi, no? Che era collegato con noi alle 2:05, e ha detto, guarda che l'hanno annunciato adesso, è ufficiale, rinvio dei giochi. Ho detto, ah, mi prende alla sprovvista, e da grandissimo qual è una notizia, ha detto lui, notizia come si suol dire mi taglia le gambe, l'ha detto Zanardi con enorme intelligenza di ironia. Il sollievo di Viviani lo condividi, Davide? Lo condivido, ma anche il mio di sollievo da responsabile, da commissario tecnico. Mettiamoci nei panni dei tecnici o ancora di più dei corridori. Sono lì, in casa, non possono allenarsi, sanno che altri colleghi invece possono farlo. Sì, mancavano quattro mesi ai giochi olimpici. Tu pensa allo spirito, tra l'altro con la preoccupazione di avere comunque qualche familiare, qualche genitore, qualche nonno, in apprensione per loro. Mi spieghi come fai per avvicinarti alle Olimpiadi con una concentrazione che è necessaria per arrivare ad un appuntamento del genere? E quindi, giustamente, come ha detto Elia, almeno ci siamo messi il cuore in pace, sappiamo che c'è una data, sappiamo che possiamo stare, non dico tranquilli, ma comunque possiamo aspettare il momento per ripartire, e quando andremo alle Olimpiadi saremo tutti sullo stesso livello. Sì, Elia, come sono stati i tuoi le ultime settimane di allenamento, peraltro? Ma guarda, io ho avuto la fortuna di essere all'ultima gara che è stata permessa, quindi ero a Parigi-Nizza fino a 10 giorni fa, e è ovvio che durante la Parigi-Nizza, quando vieni a sapere che non ci saranno più gare dopo, ho pensato prima di tutto a fare una settimana in recupero. Avrei guadagnato comunque una settimana di rulli in casa, non sapendo quando le gare sarebbero riprese, quindi lo scenario si è un po' presentato subito. Prima di 2 mesi sicuramente non torneremo alle gare, quindi ho optato per prendermi una settimana, probabilmente anche perché ne avevo bisogno, e da lunedì sono ripartito con delle sessioni di rulli, con degli esercizi a corpo libero. Ho cercato di attrezzare per il quanto possibile il garage come una mini palestra, quindi passiamo le giornate così, quindi con un programma già dal mattino, così passano prima. Ovviamente non c'è quella fretta di mettere alla sveglia, avere tutto metodico, perché comunque abbiamo tutta la giornata a nostra disposizione, e niente, per ora sto affrontando così, sperando e guardando tutti gli aggiornamenti che la cosa migliori, soprattutto per la salute delle persone prima di tutto, e poi per cercare di capire quando torneremo in strada. Certo, ecco. Però come diceva Davide, l'altro giorno Giovanni Bruno faceva parallelo proprio tra te, la tua situazione attuale a proposito di allenamenti impossibili, la tua situazione attuale e quella di Fromm che in Sudafrica stava facendo 400 km al giorno. Per tornare al discorso di Davide, è anche giusto pensare che una grande competizione la si debba preparare in condizioni di parità, no? Sì, assolutamente, proprio per questo anche quel sollievo di cui parlavo prima. Insomma, adesso la preoccupazione torna comunque, perché se il tour resterà in quella data e tutte le gare, quando ritorneremo alle gare, c'è chi al momento si sta allenando e chi invece come noi sta cercando, insomma, di tenere la condizione alta. Non sono preoccupato, nel senso, come ho detto prima, lo scenario è che non torneremo presto alle gare, quindi sarebbe più preoccupante che fra un mese abbiamo la prima gara e noi saremo ancora in casa in questo momento qua. Probabilmente nella mia testa, e voglio essere abbastanza ottimista, c'è il fatto che adesso un atleta deve pensare a tenere la condizione a un livello decente, diciamo un 60-70% sarebbe perfetto, e poi nel momento in cui sia un programma più definito, ovvio che c'è il tempo, quelle 3-4 settimane, per raggiungere quel 90-80% che ti serve per andare alle gare. Poi ovvio che step by step si arriva a quella condizione che poi devi avere ai grandi appuntamenti, ecco. Sì, il fatto è che il ciclismo, a differenza di tutti gli altri sport, una competizione al momento confermata ce l'ha, ed è il Tour de France che di lì non si muove. Dal 27 di giugno, correggetemi se sbaglio, è prevista la partenza del Tour, che con il suo miliardo di euro di valore, facciamo così, ma questo direte voi problemi di altri, però in questo momento il tour non è rinviato. Questa situazione è realistica, vi chiedo, Piero Augusto, poi sentiamo Davide Delia Viviani. Ma è realistica, è un punto di domanda. Oggi, ad esempio, questa mattina il ministro alla salute francese in realtà ha messo il dubbio, e la situazione si sta aggravando sempre di più. Certo, i francesi hanno probabilmente fatto un test generale. Oggi capiamo in maniera più chiara il perché hanno corso la Parigi-Nizza. e hanno dimostrato al governo francese che loro sono in grado di correre, tra virgolette, a porte chiuse, cioè senza spettatori. E hanno anche ipotizzato, hanno già presentato anche un piano B, che è quello di non avere un villaggio di partenza, un villaggio d'arrivo e neanche una carovana pubblicitaria che sappiamo essere mastodontica, composta da 250 mezzi pubblicitari e un valore inestimabile. Quindi sono già pronti proprio per blindare la corsa e far correre solo i corridori, e quindi sarà un evento assolutamente televisivo e radiofonico. Detto questo, però, bisogna vedere come sarà la situazione da qui a un mese e mezzo in Francia, se la situazione sarà ancora su questi livelli, quindi si potrà ragionare di poter mettere in campo una macchina così grossa e così invasiva, probabilmente riusciranno a vincere gli organizzatori del tour. Però ho già messo le mani, questa mattina ha messo le mani avanti il ministro della salute francese, dicendo non è così scontato, non è assolutamente scontato, certo non bisogna, dobbiamo tenere monitorata la situazione e vediamo nemmeno fino a che punto sia auspicabile, mio caro, perché sinceramente lo scenario che mi hai descritto a me mette abbastanza i brividi, però molto più importante l'opinione di Davide Cassani di ieri. Il sentiment degli organizzatori. Qual è la tua valutazione su questo quadro, Davide? In effetti più che realistica mi sembra è auspicabile, c'è questa speranza, sai, vedere un tour a porte chiuse è come andare in bicicletta sulle strade o farla sui rulli, ok, c'è la stessa differenza, no? Sui rulli meglio di niente piuttosto che niente, meglio piuttosto, come si dice, no? Sì. Però adesso non possiamo saperlo, neanche i francesi lo sanno, e anche a me piacerebbe vedere il tour nella data prefissata, perché vorrebbe dire che comunque ci sarebbe la possibilità di rivedere il Giro d'Italia, la Vuelta e il resto, perché la stagione comunque potrebbe arrivare a novembre, ma adesso non possiamo saperlo, e quindi mi auguro davvero con tutto il cuore che il tour possa essere fatto da fine giugno a metà luglio, ma non lo sappiamo. Anche a porte chiuse? Ma ripeto, sarebbe veramente un peccato, perché alla fine il bello del tour, almeno il bello di una corsa in bicicletta, è la corsa, ma con tutte le migliaia di persone a bordo strada. Vedere un tour senza gente, cavolo, non lo so quanto possa guadagnarci. Forse la cosa migliore sarebbe appunto rimandarlo di qualche settimana. Ma adesso fare delle previsioni è talmente complicato. È impossibile. Elia, tu hai corso un pezzo di Parigi-Nizza sui rulli, come dice il CT. Com'è questo quadro? Com'è quella sensazione? Io non lo vedo una cosa possibile, nel senso che la sensazione di correre in bici, ovvio che alla Parigi-Nizza era abbastanza una situazione surreale, nel senso che capivi che c'era un qualcosa che non andava, la partenza, l'arrivo, però quando c'era quel chilometro zero, la testa di un atleta, più che guardarsi intorno, pensa a chi attacca, quando sarà la prossima salita, quando arriva la volata, se è una tappa di montagna o tutte queste cose. Quindi all'interno della gara era una gara tra virgolette normale, ed è stata anche spettacolare da quello che abbiamo visto in TV. E dall'altra parte dico che secondo me quella era una soluzione per tirare avanti e arrivare al punto di chiusura, ma che non può essere una ripartenza. Non lo può essere, perché nel momento in cui si fa a porte chiuse, comunque a rischio lo staff e i corridori si mettono, quindi non è una situazione che si può ripetere. Secondo me è stato proprio un fine corso, e quindi è stata accettata per fine corso, ma è improponibile ripartire da, nel senso che sappiamo tutti che ripartiremo quando ci saranno zero casi, perché come tutti gli sport siamo a livello mondiale, quindi arrivano persone da tutto il mondo, e questo vuol dire che non ci sarà, alla data del tour non ci sarà nessun caso in giro, si potrà partire con tutti, con il pubblico, con i corridori, ma la situazione di porte chiuse io non la vedo una cosa possibile, nel senso che comunque i 200 corridori che partono sono un gruppo di persone, e sì, se non è controllabile il pubblico non è controllabile questo, neanche questo è un punto, quel gruppo. Questo è un punto fondamentale, ma per tutti gli sport. Ragazzi, vi chiedo un secondo di pazienza, poi vorrei approfondire questo discorso e avere un altro paio di domande per tutti voi. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. No, perché uno dei grandi punti e dei grandi interrogativi è proprio questo, che è quello che ha sollevato Viviani. Davide, le dinamiche, l'ho chiesto anche prima a Gigi D'Atome, l'ho chiesto a Chico Blengini, lo farò anche con gli ospiti che avremo nei prossimi giorni. Il problema saranno anche le dinamiche all'interno del campo, della pista, del gruppo. Insomma, è impossibile che questo non lasci delle tracce nella psicologia di chi fa lo sport per mestiere. Ma anche perché, come ha detto Elia, non ci sono solamente i 200 corridori in Tour de France, sono 4.000 le persone coinvolte. Vuol dire che il tour si può tornare a fare solamente quando c'è la garanzia totale che le persone possono, non dico abbracciarsi, ma stare vicine l'un l'altra. E quindi alla fine ci sono delle situazioni davvero complicate. Però io sono anche convinto che nel giro di 2 o 3 mesi la situazione possa tornare normale. Sembra che in Cina questo sia successo, perché non ci sono più casi da alcuni giorni. E quindi il giorno che ci daranno l'ok potremo tornare a correre, come è stato tante volte anche nel dopoguerra, come c'è stato il giro del 46 partito il 15 giugno con la guerra finita e quindi sono ripartiti. Uno poteva dire, ma come? C'è un giro d'Italia nel 46 quando c'è da fare altro? Ma andiamo a vedere l'importanza che ha avuto quel giro d'Italia, no? La gente che si è riversata sulle strade ha avuto comunque degli idoli per cui tifare, è stato comunque una rinascita anche grazie, non dico solo al Giro d'Italia, ma comunque è stato qualcosa di importante. Ecco, io mi auguro che il ciclismo, quando può ripartire, possa essere quel qualcosa che dia gioia, che dia divertimento. Anche per questo che è molto difficile pensare ad un tour, ad una corsa senza pubblico. Una corsa è gioia, divertimento, è sfida, e devono esserci tutti gli ingredienti, altrimenti non è la stessa cosa. Sì, mi viene in mente Pier Augusto quanto ci ha detto l'altro giorno Ettore Messina. Questa è una posizione, ricominciare quando tutte le componenti potranno essere al loro posto. È chiaro che si va per tempi un po' più lunghi, forse oltre la linea del Vallo di Adriano di questa stagione, Pier. È chiaro che questo è una linea di buon senso, quello che dice Ettore Messina, quello che da poco fa ha detto Davide Cassani. Il buon senso impone che il ciclismo e lo sport tutto si rimette in gioco nel momento in cui ci sono le condizioni per poterlo fare in serenità, con la gente che è disposta e predisposta a divertirsi con gli atleti. Però ci sono anche delle condizioni particolari, come ad esempio non più tardi dell'altro ieri uno dei più importanti manager del ciclismo, Patrick Lefebvre della De Koenig Quickstep, ha detto a chiare lettere: se noi non riusciremo a correre un Tour de France, il sistema ciclismo imploderà. E quindi c'è punto, un insieme di esigenze che lo vediamo comunque declinato anche per altri sport, a cominciare dal calcio, dalla Formula 1. Ci sono delle pressioni di buon senso, di attesa, di pazienza, di rigore, e dall'altra l'esigenza fremente di dover bruciare le tappe e tornare immediatamente a rimettersi in moto. Ecco, bisogna trovare un punto di congiunzione, ribadisco, però un punto di buon senso. Sì. Rischiamo veramente seriamente di accelerare il tutto per rovinare poi tutto. Sì, è troppo rischioso. Sì, sì. Cosa ne pensi, Elia? No, sono d'accordo con quello che dice Davide. Vogliamo essere ottimisti, pensare che fra 2 mesi, 3 mesi la cosa sia risolta, ecco. Quindi per questo è giorni che anche noi professionisti cerchiamo di dare dei messaggi, di far passare dei messaggi per raggiungerci a quelli che fanno passare nella TV, nelle radio, insomma, che più siamo diligenti in questo periodo come cittadini, e prima usciremo da questa situazione. Quindi, però la penso così, penso che sia ancora in una data fattibile il tour, come mi auguro che da quando ripartiamo la voglia, la determinazione di tutti ci porti a recuperare anche tutte quelle gare che per ora sono state rimandate. Grazie Lia, ti abbraccio. Grazie. Grazie a voi. Ti abbracciamo tutti noi. Davide, quanto rischia il sistema ciclismo in questo momento? Come tutti gli altri sport, perché alla fine uno stop del genere si farà sentire, anche perché le squadre sono alimentate solamente dagli sponsor. Se questi fanno un passo indietro è un problema per tutti quanti. Ma tornando al discorso di prima, sai, bisogna e possiamo ripartire quando siamo guariti. Se rimanendo sempre in ambito sportivo, se un corridore ha l'influenza, se un corridore ha 38 di febbre, se esce in bicicletta rischia di prendersi una polmonite e quindi è peggio. L'unica cosa che possiamo fare è aspettare e quando c'è l'ok ripartire. Il tour, se non si fa a fine giugno, speriamo di poterlo fare a fine luglio o a fine agosto o a fine settembre. Il giro è la stessa cosa, alla fine lo sappiamo che è un anno particolare, eccezionale per questo motivo. E quindi il giorno che capiremo quando si può ripartire bisogna rimettersi lì, rifare un calendario di sana pianta e cercare di salvare il salvato. Sì, anche perché come dicevi ora, è tutto legato anche ad investimenti che in questo momento in parte sono incerti e sono fondamentali soprattutto per diciamo così le squadre che non sono esattamente le superpotenze mondiali, cioè ci sono banalmente squadre che team che rischiano più di altri. Hai parlato con Nibali? Perché un altro pensiero che ho avuto in questi giorni va per gli atleti. Ieri Zanardi diceva: ho 53 anni, sto preparando le Olimpiadi, per me ogni anno vale come quello dei cani, cioè conta 7. E quindi ci sono atleti, in parte abbiamo sentito anche prima Federica Pellegrini, Di Francesca, Della Pea, Aldo Montano, Clemente Russo, però anche Nibali, insomma, a un'età avanzata, rinvio di un anno, come può essere metabolizzato da atleti che hanno questa età? Corridore vecchio quando non ha più stimoli, quando non ha più fame di vittoria. Valverde ha vinto un campionato del mondo a 38 anni e Nibali, dal momento che c'è ancora sullo stomaco la caduta di Rio, sono convintissimo che sarà forte come e più di sempre anche l'anno prossimo. Grazie Davide, grazie davvero. A voi. A presto, grazie GT. Pier Augusto Stagi, con te rimaniamo in contatto, ma voglio chiederti una sensazione personale. Anche qui, ripeto, sensazione personale come quella di tutti noi. Vedremo il Tour de France, vedremo il ciclismo in questa stagione, secondo te? Ma voglio ancora crederlo. Non so se vedremo il Tour de France nelle date in cui al momento è. Probabilmente potrebbe anche slittare, però io spero ancora in una Milano-Sanremo che potrebbe essere riposizionata grosso modo intorno al 19 di settembre, credo in un Tirreno Adriatico, credo in un Giro d'Italia che potrebbe essere inserito in quella finestra che era per i Giochi Olimpici. Ecco, ma il Giro d'Italia, abbiamo quindi parlato del Tour che al momento rimane lì fermo, ultimo baluardo dello sport, perché mi pare che tutto il resto sia stato riposizionato o rinviato a data da destinarsi. Ma quanto al Giro, sappiamo dell'ufficialità della cancellazione delle prime tappe in Ungheria, quanto al resto qual è la situazione attuale? Situazione attuale è che loro, tra l'altro, la RCS Sport, bisogna riconoscerlo, sono stati tra i più bravi in assoluto. Hanno preso provvedimenti con grande lucidità e con grande fermezza in tempi non sospetti, senza litigare, anzi hanno dato un esempio al mondo sportivo. Hanno sospeso immediatamente. Faccio fatica a sentirti con il collegamento. Proviamo a ci sei? Ce la facciamo? Sì, sono qua, no. Carlo. No, no, non riusciamo a chiudere il discorso, mio caro, perché il collegamento si è messo a fare le bizze. Ma tanto avremo modo di riprendere, di tornare su tutti questi temi. Intanto io, ringraziando Anita Panizza, Claudia Schiattone, Alessandro Schirano e Roberta Frisani in regia, vi do appuntamento a domani, tutti convocati alle 14, e vi annuncio, abbiamo appuntamento con Alex Del Piero, quindi keep in touch. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. Cazzo, devo nuotare un altro anno.